Combray c'era una rue de Saint-Treille cui non avevo più ripensato. Andava da rue de la Bretonnerie a rue de l'Oiseau. E poiché Saint-Treille, compagni d'armi di Giovanna d'Arco, aveva sposato una Guermantes, facendo entrare in questa famiglia la contea di Combray, le sue armi inquartavano quelle de Guermantes nella parte inferiore di una vetrata di Saint-Hilaire. Rividi alcuni gradini di arenaria nerastra, mentre una modulazione riportava il nome Guermantes al tono obliato in cui lo sentivo una volta, così diverso da quello nel quale designava i miei amabili ospiti di stasera. Se il nome di duchessa di Guermantes era per me un nome collettivo, non lo era solo nella storia, grazie al succedersi di tutte le donne che lo avevano portato, ma anche nel corso della mia breve giovinezza, che aveva già visto in questa sola duchessa di Guermantes sovrapporsi tante donne diverse e ciascuna di esse sparire non appena la successiva aveva preso sufficiente consistenza. Le parole non cambiano così sostanzialmente significato in qualche secolo come per noi i nomi in qualche anno. La nostra memoria e il nostro cuore non sono abbastanza grandi per poter essere fedeli. Non abbiamo abbastanza posto nel nostro pensiero attuale per poterci tenere accanto ai vivi anche i morti. Siamo costretti a edificare su ciò che è venuto prima e che ritroviamo solo per caso, grazie a uno scavo del genere di quello effettuato ora dal nome Saint-Treille. Mi parve inutile spiegare tutto questo, e anzi, poco prima, avevo implicitamente mentito, evitando di rispondere al signor di Guermantes, che m'aveva chiesto «Non conoscete il nostro paesello?» Forse sapeva già che lo conoscevo, e fu solo per buona educazione che non volle insistere. Madame de Guermantes mi distolse dai miei pensieri. «Io trovo tutto ciò orribilmente noioso. Credetemi, non è sempre così qui da me. Spero che tornerete presto a pranzo. Avete diritto a una compensazione. Niente genealogie stavolta», mi disse sottovoce la duchessa, senza capire a quale genere di fascino io potessi soggiacere in casa sua, incapace dell'umiltà di piacermi come un puro e semplice erbario pieno di piante desuete. Ciò che, secondo Madame de Guermantes, avrebbe deluso le mie aspettative, era invece, sul finire della serata, giacché il duca e il generale non smisero più di parlare di genealogie, ciò che la salvava da una delusione completa. E come avrei potuto, fino a quel momento, non essere deluso? Ciascuno dei commensali, rivestendo alla meno peggio il nome misterioso sotto il quale unicamente l'avevo conosciuto e sognato a distanza, di un corpo e di un'intelligenza simili o inferiori a quelli di tutte le persone che già conoscevo, m'aveva dato la stessa impressione di piatta volgarità che può dare l'entrata nel porto danese di Elsinore a un infiammato lettore di Amleto. Certo, le regioni geografiche e l'antico passato che mettevano nei loro nomi fustai e campanili gotici avevano, in una certa misura, plasmato i loro volti e le loro menti e i loro pregiudizi, ma vi sopravvivevano solo come la causa nell'effetto, cioè percepibili, forse per l'intelligenza, ma assolutamente inavvertibili all'immaginazione. E furono quei pregiudizi d'altri tempi a restituire di colpo agli amici de Guermantes la loro perduta poesia. Certo, le nozioni possedute dai nobili e che fanno di loro i letterati, gli etimologisti, non già della lingua delle parole, ma di quella dei nomi, e anche questo solo rispetto alla media ignorante della borghesia, giacché se, allo stesso livello di mediocrità, un devoto potrà rispondervi meglio di un libero pensatore su questioni di liturgia, un archeologo anticlericale, in compenso, la saprà spesso più lunga di un curato su tutto quel che concerne la sua stessa chiesa, Tali nozioni, se vogliamo restare nel vero, vale a dire nello spirito, non avevano nemmeno, per quei gran signori, il fascino che avrebbero avuto per un borghese. Essi sapevano meglio di me, forse, che la duchessa di Guise era principessa di Clèves, d'Orléans, di Porcien, eccetera, ma prima ancora di tutti quei nomi avevano conosciuto il viso della duchessa di Guise, di cui da allora questo nome mandava loro il riflesso. Io avevo cominciato dalla fata, sia pure destinata ben presto a perire, loro dalla donna. Nelle famiglie borghesi capita a volte che insorgano gelosie se la sorella minore si sposa prima della maggiore. Non diversamente, il mondo aristocratico, dei Courvoisier soprattutto, ma anche dei Guermantes, riduceva la sua grandezza nobiliare a semplici superiorità domestiche, a causa di una puerilità che io avevo conosciuta da prima ed era per me il suo unico fascino nelle pagine dei libri. Non sembra forse che Tallemant de Roux parli dei Guermantes e non dei Rohan quando racconta con evidente soddisfazione che il signor di Guémené gridava al fratello: «Qui puoi entrare, non è il Louvre», e diceva del cavaliere di Rohan, perché era figlio naturale del duca di Clermont, lui almeno è principe. La sola cosa che, in quella conversazione, mi rattristasse era vedere che le assurde storie riguardanti l'incantevole granduca ereditario di Luxemburg trovavano in quel salotto non minor credito che presso gli amici di Saint-Lieu. Decisamente era un'epidemia che sarebbe durata forse appena un paio d'anni, ma che intanto contagiava tutti. Si rilanciarono i soliti falsi racconti, se ne aggiunsero altri. Capì che la stessa principessa di Luxemburg, con l'aria di difendere il nipote, forniva armi per attaccarlo. «Avete torto a difenderlo», mi disse, come aveva fatto anche Saint-Lieu, il signor di Guermantes. «Ecco, lasciamo pure da parte l'opinione, peraltro unanime, dei nostri parenti, ma provate a parlare di lui con i suoi domestici, che tutto sommato sono quelli che ci conoscono meglio. Madame de Luxembourg aveva passato al nipote il suo negretto. Il poverino è tornato in lacrime. Granduca ha picchiato me, io no canaglia, granduca cattivo da non credere. Ne parlo con cognizione di causa, è cugino di Orian». Impossibile dire, d'altronde, quante volte, nel corso di quella serata, udì le parole cugino e cugina. Da un lato, il signor di Guermantes, quasi ad ogni nome che venisse pronunciato, esclamava «Ma è un cugino di Orian!» con la stessa gioia di un uomo che, smarritosi in una foresta, legga sotto due frecce, disposte in senso contrario, su un cartello indicatore e seguite da un esiguo numero di chilometri, Belvedere Casimir Perrier e Croix du Grand Veneur, e narguisca d'essere sulla buona strada. D'altra parte, le stesse parole cugino e cugina obbedivano a una funzione diversa, che qui faceva eccezione, nei discorsi dell'ambasciatrice di Turchia che era arrivata dopo pranzo. Divorata dall'ambizione mondana e dotata di una reale capacità di assimilazione, l'ambasciatrice recepiva con la stessa facilità argomenti come la ritirata dei 10.000 o la perversione sessuale negli uccelli. Era impossibile coglierla impreparata sulle più recenti pubblicazioni tedesche, trattassero di economia politica, di turbe psichiche, delle varie forme dell'onanismo o della filosofia di Epicuro. Era, peraltro, una donna pericolosa da stare a sentire, perché, perennemente in errore, vi additava come donne di facilissimi costumi alcuni irreprensibili modelli di virtù, vi metteva in guardia contro un signore animato dalle intenzioni più pure e raccontava certe storie che sembravano uscite da un libro, a causa non della loro serietà, bensì della loro inverosimiglianza. Era, a quell'epoca, poco ricevuta, Frequentava ogni tanto donne brillantissime come la duchessa di Guermantes, ma in generale, nel giro delle famiglie più nobili, era rimasta forzatamente confinata ad alcuni rami oscuri che i Guermantes non frequentavano più. Sperava di mostrarsi inserita nella migliore società, citando i più altisonanti nomi di personaggi poco ricevuti che erano amici suoi. Subito il signor di Guermantes, credendo che si trattasse degli stessi che pranzavano spesso da lui, fremeva di gioia ritrovandosi in territori familiari e lanciava il grido di riconoscimento. «Ma è un cugino di Orian, lo conosco come le mie tasche, abita in Rue Vanneau, sua madre era Mademoiselle Duzé». L'ambasciatrice era costretta ad ammettere che il suo esempio era tratto da animali più piccoli. Cercava di collegare i suoi amici a quelli del signor di Guermantes, riacciuffandolo di sbieco. «So benissimo chi volete dire. No, non sono quelli, sono loro cugini». Ma la frase di riflusso lanciata dalla povera ambasciatrice non aveva vita lunga. Il signor di Guermantes, deluso, rispondeva: «Ah, allora non so di chi parliate». L'ambasciatrice rinunciava a replicare, perché se quelli che conosceva erano sempre i cugini delle persone giuste, molto spesso questi cugini non risultavano neanche lontani parenti. Poi, da parte del signor di Guermantes, seguiva una nuova ondata di «Ma è una cugina di Orian!» Parole che sembravano avere per lui, in ciascuna delle sue frasi, la stessa utilità di certi epiteti cari ai poeti latini, perché fornivano loro un dattilo o uno spondeo per i loro esametri. L'esplosione di «Ma è una cugina di Orian!» mi parve almeno del tutto naturale applicata alla principessa di Guermantes, la quale era in effetti parente assai prossima della duchessa. Sembrava che questa principessa non andasse a genio all'ambasciatrice. Mi sussurrò a voce bassissima: «È stupida, ma no, non è neanche tanto bella, è una fama usurpata». E poi, concluse con tono al tempo stesso ponderato, repulsivo e deciso, «mi è estremamente antipatica». Ma spesso la cuginanza aveva un'estensione ben maggiore, giacché Madame de Guermantes si faceva un dovere di dire «cara zia» a persone con le quali non le si sarebbe scovato un antenato comune se non risalendo almeno a Luigi XV. Così come, ogni volta che, per colpa di questi tempi sciagurati, una miliardaria sposava qualche principe il cui trisavolo aveva sposato, come quello di Madame de Guermantes, una figlia di Louvois, tra le grandi gioie dell'americana c'era anche quella, sin da una prima visita a Palazzo Guermantes, dove peraltro la si riceveva più o meno male e le si facevano più o meno bene le pulci, di poter chiamare «cara zia Madame de Guermantes», che la lasciava fare con un sorriso materno. Ma mi importava ben poco di cosa fosse la nascita per il signor di Guermantes e il signor di Beausorfeil. Nei loro discorsi sull'argomento io cercavo un mero piacere poetico. Me lo procuravano senza conoscerlo essi stessi, come agricoltori o marinai, quando parlano di coltivazioni o di maree, realtà troppo poco staccate dalla loro vita perché possano gustarne la bellezza che io, per conto mio, mi curavo di estrarne. A volte, più che di una stirpe, un nome suscitava il ricordo di un particolare evento, di una data. Sentendo il signor di Guermantes rammentare che la madre del signor de Breauté era Choseille e sua nonna Lucinge, mi parve di vedere, sotto la sua banale camicia dai semplici bottoni di perla, sanguinare in due globi di cristallo, auguste reliquie, il cuore di Madame de Praslin e quello del duca di Berry. Altre erano più voluttuose, i fini, lunghi capelli di Madame Tallien o di Madame de Sabran. Altre volte era più di una semplice reliquia che soffriva il mio sguardo. Più ferrato di sua moglie in materia di antenati, il signor di Guermantes si trovava a disporre di ricordi che conferivano alla sua conversazione l'ariosa bellezza di un'antica dimora sprovvista di veri e propri capolavori, ma piena di quadri autentici, mediocri e maestosi, il cui insieme suscita un effetto grandioso. Poiché il principe d'Agrigento aveva chiesto come mai il principe di X, parlando del duca d'Aumol, avesse detto «mio zio», il signor di Guermantes rispose «perché il fratello di sua madre, il duca di Württemberg, aveva sposato una figlia di Luigi Filippo».